24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:31 minuti in questo istante, eccoci qua cari ascoltatori insieme fino alle 9 come di consueto, e voglio subito lanciare il sondaggio che già trovate sul sito radio24.it alla sezione bianco o nero, oppure sul sole24ore.com. Parliamo di politica e non solo. Sapete che un paio di giorni fa il direttore del giornale Feltri ha minacciato di pubblicare un dossier a luci rosse che coinvolgerebbe il presidente della Camera Fini, che per tutta risposta lo ha querelato. E allora il sondaggio che vogliamo fare è questo: da che parte state su questa vicenda? Feltri o Fini? Ne parliamo anche nella rassegna stampa, la lettura dei giornali. In primo piano. Inevitabilmente, infatti, la politica, le polemiche, l'intervento di ieri a Porta del premier Silvio Berlusconi monopolizzano le aperture dei giornali. Le andiamo a vedere. Stampa e politici, Berlusconi attacca il Corriere della Sera. Il premier consegna le nuove abitazioni ai terremotati in Abruzzo. Per la Repubblica, farabutti in politica, stampa e TV. Berlusconi da Vespa attacca Repubblica. Fini, i problemi sono suoi. Per il giornale invece la missione è compiuta, ovviamente le case ai terremotati abruzzesi. C'è Berlusconi che entra in una di queste case con una famiglia a Onna, comprensibilmente molto felice. Niente elezioni anticipate, l'apertura della stampa è sempre Berlusconi, uno stralcio delle dichiarazioni ieri a Porta. Farabutti in giornale e TV, Fini, i problemi sono suoi. E ancora il messaggero, Berlusconi, nuovo affondo sui media. Questa è l'apertura appunto del messaggero. L'Unità invece, il titolo è Berlusconi ad Aquila con Bruno Vespa, si vede il sindaco dell'Aquila, il presidente della provincia Pezzopane. Televendita, questo è il titolo dell'Unità. Ma poi li vedremo, insomma, le varie aperture. Certo che però i commenti sono davvero quasi tutti concentrati su questa serata, quella che il Corriere della Sera titola pagina 3, le due ore di show nel salotto corazzata. C'è anche un commento di Aldo Grasso molto duro: la trasmissione che Bruno Vespa non avrebbe mai dovuto fare. Ecco, questa è la trasmissione che Vespa non avrebbe dovuto fare, scrive Aldo Grasso, per evitare le violenti polemiche suscitate, ma anche per orgoglio professionale, per non rovinare quanto di buono aveva fatto a favore dei terremotati della sua città. Vada per Porta a Porta spostata in prima serata per la consegna delle villette agli sfollati di Onna, vada per Vespa cronista privilegiato al seguito del presidente tornato gioiosamente impresario edile. Vada per il monologo del premier sulla ricostruzione, il suo sciorinare cifre e sondaggi favorevoli, ma Vespa si sarebbe dovuto opporre allo slittamento di Ballarò e, visti i suoi buoni rapporti con Palazzo Grazioli, anche a quello di Matrix. Ieri sera Vespa e il direttore generale della RAI, Mauro Masi, scrive ancora Aldo Grasso, hanno fatto fare un passo indietro all'informazione TV, l'hanno riportata ai tempi del pensiero unico e del canale unico, la TV dell'obbligo. È anche interessante il fatto che anche il Sole 24 Ore, almeno nel fondo di prima pagina, firma Alberto Orioli, dedicato a questo tema: bene le case in Abruzzo, ma senza gran cassa. Questo è il titolo dell'editoriale di Orioli, che scrive: non c'è italiano per bene che non auspichi in Abruzzo una ricostruzione rapida e rigorosa che lenisca le sofferenze della popolazione. L'efficienza assicurata dal governo, dalla protezione civile di Guido Bertolaso, è dunque patrimonio di ogni cittadino. Le casette di Onna danno il segno di un ritorno a una normalità dopo la tragedia. Sono un bel risultato per tutti. Se l'Italia sapesse tornare unita sulla gara per la soluzione dell'emergenza, sarebbe un bel giorno, tanto più adesso, con la crisi quasi alle spalle e un futuro sia pure al passo verso la ripresa. Però, conclude più avanti Alberto Orioli, a chi governa però tocca anche impedire che la fine dell'emergenza terremoto venga ridotta a tema da propaganda politico-televisiva, trasformando in gadget quella che è una difficile opera di salvataggio. Non sarebbe utile vedere nei talk show TV la caricatura di una ricostruzione dei palinsesti più che dei paesi in macerie. Chi volesse fare della TV questo uso sbaglierebbe tanto quanto chi oggi nel centro-sinistra non sa dire altro se non che il successo in politica passa dal controllo catodico. È un errore gemello fra gli stessi guasti da una parte e dall'altra dello schieramento politico. Questo Alberto Orioli in prima pagina sul Sole 24 Ore. È più duro il commento di Repubblica, che analizza l'intervento di Berlusconi. Un monologo con insulti e menzogne nel salotto del servizio pubblico, scrive Curzio Maltese in un commento che parte dalla prima pagina. Un commento che inizia così: c'è poco da commentare nella puntata di Porta a Porta di ieri sera, bisogna passare ai fatti, registrare tutto, inviarlo al resto del mondo via internet con una sola parola di accompagnamento: aiuto. 3 ore di spot governativo col miglior presidente del Consiglio degli ultimi 150 anni, autoproclamatosi superiore a De Gasperi, senza alcun contraddittorio, non soltanto in studio ma nell'etere intero. Che ne penseranno nei paesi democratici? Vespa, scrive più avanti Curzio Maltese, non ci ha neppure provato, a parte il minimo sindacale. Nessuno di Repubblica è presente. Lasciamo perdere gli altri figuranti. Nessuno nell'affrontare il problema dei rapporti confini ha chiesto al Cavaliere un giudizio sui dossier luci rosse contro il Presidente della Camera, sventolati come arma di ricatto da Vittorio Feltri, direttore del giornale di famiglia. Il meno che si possa dire è che la puntata di Porta a Porta ha dato ragione a tutte le critiche della vigilia, anzi è andata oltre le peggiori aspettative. Questa è la posizione di Repubblica e di Curzio Maltese. C'è da dire che si affronta l'altro tema, che è il tema, ricordo, anche appunto del nostro sondaggio, che potete già votare sui siti di radio24.it e il sole24ore.com. La sfida Feltri-Fini, noi l'abbiamo sintetizzata così. Un paio di giorni fa il direttore del giornale ha minacciato di pubblicare un dossier a luci rosse del 2000 che coinvolgerebbe anche uomini vicino al Presidente della Camera. La risposta è stata una querela. Oggi ci sono tanti commenti su questo, perché ci sono stati anche degli sviluppi politici con una lettera che alcuni diversi esponenti di ex Alleanza Nazionale hanno firmato. E allora Fiorenza Sarzanini sul Corriere, per esempio, scrive la posizione di Fini: l'ex capo di AN e le carte, non ho nulla da temere. Nelle ultime ore lo sgomento del Presidente della Camera per quello che ha definito un attacco intimidatorio di inaudita violenza si è trasformato in rabbia feroce. E allora ha scelto di reagire in maniera durissima con una denuncia penale contro Feltri perché, virgolettato di Fini, io non ho mai avuto frequentazioni di questo tipo, incontri che possano imbarazzarmi, dunque non ho paura che questo fascicolo sia acquisito e reso pubblico. E tra l'altro è ovviamente interessante la posizione del giornale, perché oggi Vittorio Feltri prende carta e penna, come fa di consueto, in editoriale di prima pagina, ma oggi è ancora più interessante leggere la risposta di Vittorio Feltri. Se il Parlamento processa il giornale, questo è l'editoriale del direttore del giornale, ovviamente a corollario dell'apertura che, come abbiamo detto, è il titolo La missione compiuta e le case ai terremotati abruzzesi. Scrive Feltri: se querela lui, ovviamente riferito a Fini, va bene, e giù applausi alla simpatica iniziativa. Se il Premier fa lo stesso contro la Repubblica e l'Unità, attenta alla libertà di stampa, indigna ma non sorprende. Per quale motivo Fini mi ha querelato? Questo è il brano meritevole di censura. Ricordi anche che delegare i magistrati a far giustizia politica è un rischio, specialmente se le inchieste giudiziarie si basano su teoremi, perché oggi tocca al Premier, domani potrebbe toccare al Presidente della Camera. È sufficiente ripescare un fascicolo del 2000 su faccende a luci rosse riguardanti personaggi di Alleanza Nazionale per montare uno scandalo. Meglio non svegliare il can che dorme. Dunque Feltri riscrive, insomma, il brano contestato. E poi dice: nelle due frasette non c'è nulla di minaccioso, di mafioso o diffamatorio. Il fascicolo citato contiene gli atti di un processo concluso con la condanna di una donna per sfruttamento della prostituzione, un processo celebrato in Tribunale della Repubblica e non nei locali del giornale. La cosa interessante è che all'interno il giornale sostanzialmente spiega quello che è il dossier sostanzialmente a cui si fa riferimento. Il dossier a cui si fa riferimento, ne parla appunto a pagina 4, è un dossier che dice il giornale per la prima volta è stato citato dall'Espresso in passato. Si tratta di una vicenda appunto passata, di un'inchiesta che coinvolge una maîtresse che avrebbe fornito prestazioni sessuali a parlamentari in cambio di favori per ottenere pubblicità in alcuni appalti. E scrive sostanzialmente Gianmarco Chiocci su Il Giornale che di questa vicenda parlarono addirittura Travaglio, Gomez e Lillo per la prima volta in un loro libro, citando anche un influente leader del centrodestra. E si chiede Il Giornale, ci vorremmo proprio sapere a chi si riferivano quando parlavano di influente leader del centrodestra. Dicevamo della lettera, tra l'altro, questa situazione ha portato alla pubblicazione di una lettera, ha raccolto le firme Italo Bocchino di Alleanza Nazionale, le ha raccolte di 69, una settantina di deputati vicini e affini che chiedono a Berlusconi un patto tra fondatori. E tra l'altro ci sono anche i retroscena, come scrive Amedeo La Mattina sulla Stampa, vale a dire il premier manda Ghedini a mediare sulla denuncia. Ghedini, onorevole avvocato di Berlusconi, è andato ieri un'ora a colloquio con Gianfranco Fini. Il premier ha avuto il tempo di mandare il suo Niccolò Ghedini dal presidente della Camera, scrive Amedeo La Mattina, per convincerlo a non fare questo passo, a ritirare la querela, per evitare di avvelenare ancora di più il clima. Tra l'altro Ghedini è convinto che gli estremi dell'azione giudiziaria non ci siano, ma Fini è stato irremovibile. Su questo tema, tra l'altro, interessante anche l'intervista a uno degli ex colonnelli, come vengono chiamati, ex colonnelli che secondo qualcuno Fini in qualche modo ha isolato con questa iniziativa. Uno degli ex colonnelli è il ministro Matteoli, poi c'è La Russa, poi c'è Alemanno, per esempio. Matteoli media, Fini sbaglia, ma va ascoltato. È un'intervista al Quotidiano Nazionale ad Andrea Cangini, nella quale Matteoli sicuramente critica la scelta della lettera. Se fossi un ipocrita direi che non ho firmato la lettera perché era rivolta ai deputati e io sono senatore. Ma io non sono ipocrita e infatti dico che reputo quell'iniziativa sbagliata, perché una lettera firmata solo dagli ex di AN crea equivoci e allontana un chiarimento. E poi va oltre. Matteoli dice: si tratta di un problema di metodo, il merito della lettera è condivisibile ma il metodo no. Infine, sulla tensione Fini-Berlusconi, la domanda finale se può tornare il sereno tra i due, risponde il ministro Matteoli: in fin dei conti Fini chiede solo un confronto e Berlusconi chiede solo di poter governare, sapendo che il partito è interamente con lui. Sono due grandi personaggi, un'intesa è inevitabile. Riguardo all'intesa, anche Maurizio Belpietro, direttore di Libero, la auspica. Silvio e Gianfranco, nemici per la pelle, costretti a fare pace, nell'editoriale che all'interno si conclude così, con un consiglio non richiesto al Cavaliere: faccia la pace con uno dei tanti avversari e si concentri sui più temibili, che non sono quelli interni ma quelli più lontani. L'intesa con Fini in fondo non richiede troppi sforzi, la sigli e poi si concentri sui nemici veri prima che sia troppo tardi. E sarebbe interessante anche capire su questo prima che sia troppo tardi per cosa. In primo piano. Per concludere questa ampia pagina dedicata alla politica, all'informazione, ai rapporti di politica, interessante su Repubblica, un'intervista anche al cardinale di Venezia, Angelo Scola. Parla in realtà in gran parte di altro, vale a dire ieri ha presentato l'Asset, l'Alta Scuola di Società, Economia e Teologia, ha concesso un'intervista a Orazio La Rocca. L'ultima domanda è quella più interessante, quella sul caso Boffo, l'ex direttore d'Avvenire, il caso del Giornale. Dice il cardinale Scola: mi dispiace quello che sta avvenendo, ma non sono preoccupato. La Chiesa non rinunzierà mai ad annunciare la sua fede. Lo fa da 2000 anni, non sarà certamente fermata da questi episodi. Quanto al caso Boffo, Non posso che confermare le dichiarazioni subito espresse dal cardinal Bagnasco, che ha parlato a nome di tutta la conferenza episcopale. So che Dino Boffo, vittima di un'ingiustizia, ora sta soffrendo. Ma so che lui, da credente, è consapevole che anche dalla sofferenza che deriva da una grave umiliazione il cristiano sa trovare la forza del riscatto. È quello che gli auguro come amico. Parliamo di altro. C'è, per quel che riguarda la cronaca, beh, questa vicenda incredibile, abbiamo sentito anche in GR24, marocchina uccisa dal padre, amava un italiano. È una vicenda che è trattata su tutti i giornali, ricorda il caso di Ina, lo ricordate, 2006, Ina Salem, 20 anni, uccisa dal padre e dai due cognati. Perché? Perché tradiva lo stile di vita conforme alla sua religione e aveva una relazione con un giovane italiano. Ebbene, anche ieri sembra questo davvero il movente: uccisa a coltellate da suo padre con l'unica colpa di avere una relazione con un ragazzo italiano, scrive Repubblica nell'articolo. È morta così una ragazza marocchina. Secondo la prima ricostruzione era in macchina col fidanzato quando è arrivato il padre e che ha raggiunto la figlia e con una serie di coltellate l'ha uccisa. Ha un fidanzato italiano, sgozzata come Ina. Questo per esempio è il titolo di Libero. Voglio fare una segnalazione molto interessante del Sole 24 Ore, che apre dal punto di vista economico con il presidente della Fed Bernanke: recessione finita, e poi Draghi, i mercati vanno verso la normalità, ora nuove regole. Ma la segnalazione che vi voglio fare è quella, la storia di Serena Danna, che occupa l'intera pagina 2 e inizia così: Osama Bin Laden non esiste, gli attentati dell'11 settembre se li sono organizzati gli americani, anzi no, Osama è Obama, oppure il presidente è musulmano, il presidente Obama, certo non è nato negli Stati Uniti, e poi di mezzo c'è la lobby ebraica che controlla la finanza dei tempi di Napoleone, tanto è vero che l'11 settembre non erano andati al lavoro molti ebrei nelle Twin Towers, lo ha detto pure una TV araba. Insomma, scrive Serena Danna, il mondo visto dai complottisti è come il nero, non passa mai di moda. Di cosa si tratta questa storia? Molto interessante. Foreign Policy ha pubblicato le 5 controverità che sfidano l'informazione ufficiale e i suoi operatori. Quali sono le 5 controverità? Beh, le 5 controverità nei confronti dei 5 presunti complotti più diffusi nel mondo. Volete sapere quali sono? Beh, il primo: il governo americano è complice di Al-Qaeda nell'11 settembre. Questa è l'idea del complotto, e poi c'è la controverità di Foreign Policy. Secondo: la finanza ebraica ha provocato la crisi finanziaria. Terza idea di complotto: un'elite transnazionale complotta per creare un nuovo ordine mondiale. Quarto complotto: Obama non è nato negli Stati Uniti e dunque non poteva essere eletto per la Costituzione americana. E infine il quinto complotto mondiale: l'AIDS è stato creato dal governo degli Stati Uniti. Ebbene, Foreign Policy ha deciso di prendere carta e penna e dire basta a questi presunti complotti, ora vi spieghiamo quali sono le controverità. Giorgio Israel è quel professore che è stato additato come il puparo ebreo in un blog e accostato a Marco Biagi, e che oggi prende carta e penna e scrive una lunga lettera al giornale, pubblicata dal giornale, per spiegare la situazione. Il consulente del ministro Gelmini, vittima di attacchi antisemiti. Sono razzisti che cercano un capro espiatorio da colpire, scrive Giorgio Israel. Ho registrato personalmente i soliti riferimenti al mio ebraismo da parte dei soliti estremisti, magari qualche caduta di stile di un funzionario in pensione, qualche frasaccia sul mio cognome, tipo è tutto un programma. Ma sono abituato dalla nascita a questi detriti che non mi fanno né caldo né freddo, però stavolta è stato passato un confine, non soltanto per la definizione di puparo ebreo, quanto per il parallelismo con Marco Biagi, rafforzato da un riferimento teorico insistito al fatto che, come allora Biagi sarebbe stato lo strumento della costruzione del precariato in generale, cosa che peraltro è un falso macroscopico, così oggi la sua operazione si starebbe riproponendo nella scuola. E ancora scrive Israel: la tecnica è quella codificata da Goebbels e che per esplicita ammissione di Hitler era stata copiata dai metodi stalinisti. Ripetere 100 volte la stessa bugia perché diventi una verità. Fabbricare un capro espiatorio, additarlo al pubblico ludibrio per isolarlo meglio. Qui poi l'operazione torna particolarmente comoda, data la natura ebraica di un soggetto implicato, la quale ha una lunga tradizione di demonizzazione. Dunque Giorgio Israel giustamente, molto duramente, prende distanza e condanna questo che qualcuno ha tentato di sottovalutare, ma che invece è una minaccia davvero brutta. Voglio chiudere con la citazione del manifesto Somalia Connection. Sapete che c'è questa nave affondata, che secondo un pentito dell''Ndrangheta è stata affondata con rifiuti tossici. Ebbene, questo pentito dell''Ndrangheta, Francesco Fonti, oggi rilascia un'intervista al manifesto, riaprendo in qualche modo anche la vicenda di Ilaria Alpi, perché dice: noi dell''Ndrangheta abbiamo portato tantissime navi come quella che avete trovato al largo di Cetraro in Somalia. In che periodo? Prima del 94, quando c'erano i nostri soldati italiani. Li portavamo al porto di Bosaso. A quei tempi i militari italiani, quando arrivava qualcosa di illecito, erano stati istruiti dai loro comandanti a girarsi dall'altra parte. E sul caso di Ilaria Alpi l'idea che mi son fatto è stata quella che è stata uccisa perché ha visto quello che non doveva vedere nel porto di Bosaso, precisamente lì. Dunque un'intervista a shock che sicuramente potrebbe riaprire alcune teorie sull'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, giornalisti del TG3. Ci fermiamo con la rassegna stampa. Andate a votare sul sito bianco o nero, il sito radio24.it. State con Feltri o con Fini? Eccoci qua alle 8:17, ben ritrovati a 24 mattino, parliamo di economia. Soldi e dintorni. Con Deborah Rosciani, eccoci qua. E con chi altro se no? No, magari qualche volta magari ci si può trovare anche qualcun altro di fronte a te. Certo. E so che lo speri ardentemente. No, sai che non è così. Allora, oggi... Aspetta un attimo. Volevo chiederti, ma tu lo sai quanto costa un chilo di pane a Milano? No, ecco, appunto, volevo dire, visto che ci si sveglia, almeno per me, alle 5:30, quindi già c'è un certo languorino a quest'ora, sì, parliamo di pane. Esatto, colazione. Quanto costa un chilo di pane? No, mannaggia, io sono uno di quelli che... Prende, va lì. Mi dia un chilo di pane. Ma tu vai dal panettiere a prendere il pane fresco oppure vai al supermercato? Perché qua al supermercato. Ecco, e qua già facciamo arrabbiare di prima mattina, anche se si è svegliato. È la vita moderna. Si è svegliato presumibilmente molto prima di noi il presidente della Federazione Italiana Panificatori, la FIPPA, Luca Vecchiato. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Noi ci alziamo tra le 5:30 e le 6, lei immagino qualche ora prima di noi. Sicuramente un po' prima. Anche se non so, magari adesso, così esercitando anche questo ruolo di rappresentanza della sua categoria, magari si recupera, riesce a recuperare qualche ora la notte per andare però in giro un po' per tutta Italia a tutelare gli interessi dei vostri associati, immagino. Sì, anche questa. Cerchiamo di impastare tutto assieme. Sì. Esattamente. Presidente, allora, perché l'abbiamo cercata questa mattina a Soldi e Dintorni? Perché la FIPPA è riuscita a condurre in porto un'iniziativa alla quale pensava da diversi mesi, anzi da almeno un paio d'anni, da quando sostanzialmente è esplosa un po' anche la crisi del pane, perché per il settore si sono drasticamente ridotti i consumi a causa della crisi economica, quindi anche sul pane questa si è risentita, ma anche a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime che si è riflessa anche sul costo di un chilo di pane. Il 2009 lei, lo scorso marzo, ha recuperato una sua intervista, aveva detto: può diventare un anno nero per il consumo di pane, servono regole chiare per la tracciabilità del pane artigianale. Queste regole, presidente, sono arrivate e avete ideato e concretizzato il bollino bianco. Che cos'è? Il bollino bianco è la garanzia per il consumatore di trovare nei locali dove questo è esposto il pane fresco. Cosa vuol dire fresco? Perché non possiamo confonderlo con caldo. Fresco vuol dire che è stato prodotto da uno dei 25.000 panifici artigianali che abbiamo la fortuna di avere nel nostro paese, la stessa notte e alla mattina venduto direttamente dove è stato prodotto, con la garanzia di chi lo ha prodotto. Lo troviamo già dal nostro panettiere di fiducia, a posto da qualche parte, questo bollino, presidente? Dove possiamo individuarlo per capire se ci stanno vendendo pane fresco? Allora, allo stato attuale noi siamo in distribuzione con oltre 600.000 bollini in tutta Italia. Stiamo terminando la campagna di distribuzione, che ormai parliamo di giorni per terminarla. Lo troveremo nelle vetrine e lo troveremo, il bollino bianco, nei cartelli che indicano la tipologia del pane. Allora, noi abbiamo spiegato all'inizio che in qualche maniera la vostra iniziativa deriva anche dal fatto che avete voluto in qualche modo aggredire la crisi economica che ha riguardato anche voi, ma in particolar modo so che lei è, tra virgolette, arrabbiato per le modalità di vendita del pane presso, per esempio, i grandi centri commerciali e la grande distribuzione. Perché? Perché li ritiene che, a parte quello che viene venduto in confezioni particolari, sappiamo ben riconoscere come consumatori che non è fresco, ma ci sono anche banchi di consumo presso i centri della grande distribuzione, presso i centri commerciali, dove possiamo comprare pane che almeno noi riteniamo fresco. Quello non è tale, Presidente? Il concetto è un pochino più ampio. Partiamo con un presupposto. Fino a 10 anni fa il produttore del pane in Italia era il panificio artigiano. Quindi non c'era la necessità di dover definire che cos'era il pane, perché per il 99% dei casi parlavamo comunque di pane fresco. Il mercato è cambiato, la globalizzazione ha aggredito anche il nostro settore e adesso non c'è più solo il panificatore artigiano, ma ci sono anche una serie di entità. Allora, se lei vuole comprare per suo figlio del latte fresco, lei sa che la legge permette lei di definire se compra un prodotto fresco oppure no. Parliamo del latte, uno dei generi di prima necessità, esattamente come il pane. Come il pane. Ecco, oggi lei non sa con certezza se compra del pane fresco o no. È un po' anche una per la pasta, in no? In tal senso in Italia è già pronta, mancano i regolamenti di attuazione. Allora, la Federazione Italiana Panificatori vuole un po' stimolare il governo affinché questi regolamenti finalmente vengano attuati e nel frattempo comincia a dire, signori, il pane fresco lo trovate in questi esercizi. Ecco, è solo una questione, Presidente, di certificazione, ma non è che poi arriviamo anche ai prezzi, ma con l'arrivo del bollino il pane fresco ci costerà un po' di più? Assolutamente no. Ce lo può garantire questo? Certo, assolutamente no, perché per certificare il nostro pane noi abbiamo stampato un bollino, facciamo lo stesso lavoro che facevamo ieri e che facevamo la settimana scorsa. La cosa che a noi interessa è che il consumatore di questo venga messo al corrente. Ecco, Presidente, noi ricordavamo prima, lo ricordavo all'inizio, lei è stato eletto, se non ricordo male, a luglio del 2008, no? Alla carica di Presidente della Federazione Italiana Panificatori. Sì. Proprio nel momento forse più delicato della crisi economica, stava esplodendo e anche Mister Prezzi e quindi questo tavolo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico ha cominciato a convocarvi, voi, insieme ai petrolieri, in sostanza all'industria petrolifera, perché insomma hanno cominciato ad osservare che le materie prime aumentavano, per cui l'aumento di queste, dal petrolio ai cereali, quindi al grano, insomma tutto aumentava e tutto si ripercuoteva anche tra le tasche dei consumatori. Voi però a questo paragone non ci siete stati. So che lei si è arrabbiato molto all'epoca per questa associazione, in sostanza. Ma sì, perché tutti parliamo di un chilo di pane, signore. In realtà il consumo medio in Italia del pane è di 80 grammi a persona. E quindi noi dobbiamo fare una valutazione su quanto realmente impatta il prezzo in questo tipo di ragionamento. Il suo collega prima diceva, compro il pane al supermercato, ma io sono certo, a meno che non abbia una famiglia di 8 persone, che il suo collega non ne compra un chilo, comprerà 150-200 grammi che gli servono per il consumo. È una famiglia di 4 persone, adesso Alessandro, sì. Allora, io all'epoca esternavo per il fatto di dire, sì, cerchiamo di portare il problema ai reali livelli. Quando è aumentato per via di tutte quelle questioni legate alla bolla economica e all'aumento delle materie prime, parlavamo di un aumento inferiore al costo di una tazzina di caffè di una settimana. Quindi però insomma era un aumento che in ogni caso sì, faceva un po' notizia e intorno al quale i consumatori avevano posto l'accento. Chi magari, come dire, gestisce, Presidente, un budget molto limitato, parlo delle persone anziane, magari delle persone sole, che quindi controllano in maniera molto attenta quelle che sono le uscite dal proprio bilancio, magari, ecco, forse per questo motivo in quel momento anche il costo del pane aveva fatto notizia. Però, Presidente, mi può spiegare, alla luce anche di tutto quello che ci siamo detti fino a questo momento, perché per esempio io ho controllato proprio mezz'ora fa i prezzi rilevati a luglio dall'osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico. Un chilo di pane costa, può arrivare a costare al massimo, non è il prezzo medio, è il prezzo massimo, a Milano 4,80 euro e a Napoli 2,50 euro? Sì, è la somma di due fattori principalmente. Intanto il consumo pro capite di pezzatura su Napoli, che è pezzature da chilo e mezzo chilo. Mentre per esempio su Milano o su altre città del nord la pezzatura massima è 60 grammi. In un prodotto come il pane, dove il costo della manodopera incide per oltre il 70% della sua realizzazione, per fare un quintale di pane impagnato da un chilo sono 100 pezzi, per fare un quintale di pane in panini a 60 grammi sono una cifra ben diversa. E quindi il lavoro, l'impatto della manodopera in questo tipo di lavorazione è sensibilmente diverso. È diversa. Presidente, questo è il lato 1. Sì, certo. Poi il lato 2 sono i costi, i prezzi delle locazioni, degli affitti, di tutto quello che è la spesa media di gestione di un panificio, che varia da una città del sud a una città del nord, oppure tra una zona di centro e una zona di periferia. In maniera molto rilevante. Presidente, dopo il bollino bianco qual è la sua prossima battaglia? Dopo il bollino bianco è l'inizio della definizione di panificio e di pane fresco. Quindi noi aspettiamo, adesso lavoreremo in tal senso, affinché vengano finalmente definiti questi dettagli, per il quale quando lei troverà una scritta panificio, lei saprà che andrà in un luogo dove troverà il pane fresco. E lei potrà decidere, esattamente come oggi può decidere per il latte, se comprare il pane fresco per i suoi figli o comprare pane con tutto quello che questo comporta. Come per il latte a lunga conservazione. Presidente, grazie molto, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. A presto. Alessandro. Eccoci qua. Allora, hai capito qual è il prezzo di un chilo di pane? Sì, l'anguarino è aumentato. Adesso andiamo a fare colazione. Vertiginosamente. No, panino, tu forse. Un panino con la mortadella stamattina. Allora, a Salvadanaio alle 12, trasparenza bancaria, c'è una direttiva di Banca Italia che le banche si stanno accingendo a recepire e quindi cercheremo di capire come dovremo leggere il nostro prossimo estratto conto. Alle 8.33 minuti le notizie in primo piano sono queste. Ci sono farabutti in politica e nella stampa, ha detto Silvio Berlusconi ieri a Porta a Porta, il programma dedicato alle consegne delle prime case ai terremotati. Berlusconi ha escluso elezioni anticipate, ha definito quelli con il presidente della Camera Fini fraintendimenti superabili. Intanto ieri Fini ha querelato il giornale di Vittorio Feltri per un articolo giudicato diffamatorio. Ne parleremo tra pochissimo. La cronaca, una ragazza marocchina di 18 anni è stata uccisa con coltellate alla gola dal padre. Il movente molto probabile, l'uomo era contrario alla relazione della figlia con un ragazzo italiano. È successo ieri a Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone. Mentre per il calcio, ieri è iniziata la Champions League, bene il Milan che vince 2-1 a Marsiglia con doppietta di Inzaghi, mentre la Juventus è stata fermata sull'1-1 in casa dal Bordeaux. Stasera Inter-Barcellona e Lione-Fiorentina. E dunque alle 8.34 minuti è il momento del nostro sondaggio. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. L'abbiamo messa così: Feltri o Fini? State con Feltri o state con Fini? È un modo per parlare della politica e di quello che è successo negli ultimi giorni, gli scossoni. Un paio di giorni fa un articolo che oggi Feltri nell'editoriale del giornale rievoca quella frase, la voglio ricordare. Ricordi a Fini che delegare i magistrati a far giustizia politica è un rischio, specialmente se le inchieste giudiziarie si basano su teoremi, perché oggi tocca al Premier, domani potrebbe toccare al Presidente della Camera. È sufficiente ripescare un fascicolo del 2000 su faccende a luci rosse riguardante personaggi dell'Alleanza Nazionale per montare uno scandalo. Meglio non svegliare il can che dorme. Come detto, Fini ha querelato il giornale di Feltri. Fini ieri si è presentato alla Camera in veste di presidente, è stato lapidario nel suo commento. Non è certamente questa la sede in cui il presidente della Camera intende affrontare la questione che è stata sollevata. Accadrà certamente in altra sede di natura politica e giudiziaria. Più chiaro di così. Vogliamo sentire Feltri su Fini nei giorni scorsi, Feltri su Fini e Fini nel PDL, ci sta o non ci sta? Si capisce che le distanze non tanto tra Fini e Berlusconi siano enormi, sono enormi tra l'elettorato della PDL e Fini, perché Fini ha assunto negli ultimi tempi posizioni che non sono compatibili con i motivi per cui il popolo italiano, parte di esso, ha votato per la PDL. Insomma, Fini non è nella PDL, non rientra più nella PDL, secondo Vittorio Feltri. Voglio salutare il condirettore del giornale Alessandro Sallusti, buongiorno. Buongiorno Sallusti. Eccoci, ci sente? Sì, la eccoci sento. Qua. Saluto anche l'onorevole Flavia Perina, che è direttore del Secolo d'Italia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sallusti, le chiedo, si dice l'ABC del giornalismo è se ho una notizia la pubblico, se non ho una notizia non la pubblico. quell'evocare un dossier del 2000 che, attenzione, è meglio non svegliare il can che dorme perché oggi tocca un altro e oggi tocca a te, che cos'è? Ma è un ragionamento politico che parte da una frase di Fini, non parte certo autonomamente da noi, nel senso che è stato il Presidente della Camera a evocare, non dossier, perché di dossier non si tratta, ma evocare processi, la possibilità di riaprire processi già chiusi, vicende giudiziarie passate per andare a rifare luce. Siccome ci sembra, come dire, una teoria abbastanza bizzarra, perché se i magistrati ritengono che ci sia il caso di riaprire delle inchieste giudiziarie, ne hanno, come dire, facoltà e autonomia senza che la politica suggerisca queste strade. Beh, noi abbiamo fatto un ragionamento politico dicendo: attenzione, che se si va a riaprire i processi chiusi passati, ci sono tanti processi, no? Per esempio, c'è un processo del 2000, non del dossier dei servizi segreti, un processo di cui oggi il Corriere della Sera ne parla ampiamente, sì, del 2000, no? In cui personaggi, perché infatti Feltri parla di personaggi vicini ad AN, molto vicini all'allora leader di AN, Gianfranco Fini, attuale Presidente della Camera, insomma, sono coinvolti in maniera così bizzarra. Quindi, che gioco è questo qui che Fini suggerisce di riaprire i processi? Vogliamo giocare a riaprire i processi? Attenzione che poi, appunto, oggi tocca uno, domani tocca un altro. Sembrava però, messa così, sembra un po', come dire, una minaccia, voglio dire, ma una minaccia in generale, generalizzata. Quella di Fini sicuramente, che vuole riaprire i processi di mafia che potrebbero ricoinvolgere il Presidente del Consiglio, è sicuramente una minaccia al Presidente del Consiglio e come tale è stata percepita dal Presidente del Consiglio. Sì, lo fanno i magistrati di riaprire i processi. Comunque, Flavia Perina, tra l'altro, ieri il Secolo d'Italia era molto più duro di oggi. Oggi vi concentrate sulla lettera, lei anche onorevole, l'ha firmata, immagino. Volevo un attimo rispondere. No, perché ieri avete parlato, sì, certo, delicato. Avete parlato di attacco infame, questo è il titolo di ieri del Secolo d'Italia. Perché, oggettivamente, io per carità capisco la difesa d'ufficio di Sallusti, che dirige il giornale e ovviamente lo deve difendere, ma non si è mai visto, si è visto in pagine buie, insomma, non dico evocare il vecchio tipo di giornalismo stile OP, ma insomma qualcuno che evoca un fatto senza poi spiegare di che si tratta. Ma io volevo puntualizzare su un'altra cosa, al di là di questo, che ormai mi sembra una polemica in qualche modo archiviata, se ne discuterà in tribunale, è stata presentata una querela. Il punto che citava Sallusti, cioè l'intervento di Gubbio, di Fini, in relazione alle indagini in corso sulle stragi di mafia, non evocava l'apertura di nessuna inchiesta. Fini si è limitato a indicare al PDL la necessità di dimostrare in tutte le sedi di avere a cuore l'accertamento di tutta la verità sui grandi delitti di mafia, cioè quelli di Falcone e di Borsellino, e mi sembra che sia un'indicazione di carattere politico che nulla aveva a che fare con complotti di tipo giudiziario e su una linea tra l'altro indicata anche più volte dal Presidente del Consiglio, che ha ripetuto più volte di aver dato mandato a Maroni come primo elemento della sua gestione criminale, quello della lotta alla mafia e dello stroncare il fenomeno dei clan in Sicilia. È evidente che si trattava di un ragionamento politico sulle posizioni politiche che assume il PDL e non aveva nulla a che fare con la percezione di intimidazione. Sallusti, le voglio chiedere, c'è un qualcosa che aleggia e che molti dicono apertamente, e cioè si è aperta, insomma, con il giornale di Vittorio Feltri, con il giornale di Alessandro Sallusti, una campagna molto offensiva, quasi, insomma, non si può far finta che il giornale non sia edito dal fratello di Silvio Berlusconi, come dire, dopo aver subito una serie di offensive da parte di Berlusconi, ecco che parte il contrattacco, e dunque c'è il caso Boffo, ora l'attacco a Fini. Fantapolitica e fantascienza, oppure c'è qualcosa di vero? No, noi non stiamo parlando di fantapolitica e di fantascienza, stiamo parlando sia nel caso Boffo e sia nel processo che ha coinvolto esponenti di AN, stiamo parlando di processi giudiziari, di processi fatti da tribunali della Repubblica Italiana, non stiamo parlando di dossier, non capisco perché quelli di Fini sono per forza ragionamenti politici, non avvisi avvisi strani, mentre i nostri devono essere avvisi strani, non ragionamenti politici. Se quello di Fini è un ragionamento politico, noi abbiamo risposto con un ragionamento politico. Ecco, dopodiché Feltri ha scritto in un'intervista rilasciata ieri alla Stampa, ha scritto che è pronto a dimettersi se qualcuno riesce a dimostrare che ha soltanto sentito per telefono e ha messo a disposizione i tabulati dei suoi telefoni il Presidente del Consiglio da quando è direttore del giornale. Credo che la storia professionale di Feltri, come dire, possa garantire il fatto che non riceve ordine da nessuno. Noi ci siamo posti un problema politico, il problema è che dei falsi moralisti, cioè di gente che tutti i giorni dà lezioni di correttezza, di moralità, di vita privata, di vita politica, no? E poi come tutti noi, perché noi poi primi non vogliamo fare gli ipocriti, come dire, non ha le carte perfettamente in regola per poter ergersi al giudice degli altri. Allora o riportiamo la discussione di questo paese dalle veline e dai processi del 90 alla politica e alle esigenze di questo paese, oppure se vogliamo come dire, fare gli accusatori, benissimo, facciamo gli accusatori. Sì, ma capisce che così è il clima, come dire, allora se qualcuno deve affondare nel fango, se c'è del fango buttiamo il fango dappertutto, in modo che almeno così tutti saranno travolti dallo stesso fango. È la teoria del ventilatore, no? Accendiamolo e poi gli schizzi arriveranno dove arriveranno. Io comunque vorrei tornare da Flavia Perina. La domanda che si pone criticamente oggi il giornale è questa: Berlusconi, querela l'Unità e Repubblica, ecco che succede il putiferio. Fini, querela il giornale, ecco che nessuno dice niente. Certo, situazioni diverse, come ognuna situazione diversa. Oggi leggevo che Maroni querela Famiglia Cristiana chiedendo 1 milione di euro di danno. Ormai una querela non si nega a nessuno, è il periodo delle querele. Che risponde a questa critica? Cioè, come... Credo che il centrodestra e anche i giornali del centrodestra, che in qualche modo raccontano la politica del centrodestra e per alcuni versi la determinano in alcune fasi, perché sicuramente Feltri in questa fase ha determinato una crisi politica autentica nel centrodestra, e dovrebbero isolare chi fa la politica col fango, chi fa il giornalismo col fango. Credo che l'atteggiamento più corretto non sia quello, ecco, della replica colpo su colpo, appunto la tattica del ventilatore che descriveva lei. Isolare che vuol dire? Perché isolare, lei sa che politica, l'onorevole Bocchino ha detto il dibattito politico alla politica, si parli di politica. Perché sa perché glielo chiedo? Perché l'onorevole Bocchino, come lei sa, in un'intervista ha detto se Berlusconi non controlla Feltri, come ci ha detto Sallusti, non lo sente mai al telefono, allora se ne libera, insomma. No, ma io non sto facendo, io non ho la minima idea che qualcuno controlli o che qualcuno debba liberarsi dei giornalisti. Io penso che una delle responsabilità in questa fase del giornalismo di destra e di chi fa politica a destra, di chi ha impegno a destra, sia quella di uscire da questa escalation di aggressioni che dal gossip sono passate alla calunnia, dalla calunnia all'infamia, dall'infamia alle minacce, perché collegati appunto al dossieraggio. Sono scene, tra l'altro io ho una lunga esperienza politica alle spalle, le ho già viste, non so, negli anni 70, quando il giornalismo era fatto di questo, dei dossieraggi sugli archivi del SIFAR, appunto, o delle allusioni di Mino Pecorelli. Bene all'Italia allora e porteranno assai male adesso al centrodestra, che non a caso in una circostanza importante come quelle di questi giorni, la vicenda dell'Abruzzo, un momento che poteva essere temi politici importanti in discussione al Parlamento, invece si divide su questo. No, lei ha citato Pecorelli, pensi che oggi Alessandro Campi, che è uomo peraltro di Fare Futuro, la fondazione insomma vicino a Fini, proprio evoca, fa un elogio di Pecorelli sul Riformista, almeno lui pubblicava notizie. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Ecco, insomma, se siete in viaggio avete saputo la viabilità di tutta Italia praticamente. Allora, Feltri o Fini? Su radio24.it chi vota? Siamo per ora al 42% Feltri, 58% Fini. Vince di poco Fini. Chi vota invece su Sole 24 Ore? Devo dire che per il momento Fini è più in vantaggio, sul 70%. Stefano Folli, buongiorno. Buongiorno. Stefano Folli, notista del Sole 24 Ore. Non chiedo ovviamente di schierarti, Stefano, su Feltri Fini, ma ti chiedo le ripercussioni politiche. C'è questa lettera firmata da una settantina di finiani in Parlamento, c'è qui anche l'onorevole Flavia Perina che ti ascolta. Su che cosa e su che basi, su quali piani politici si misurerà a stretto giro di posta, secondo te, questa lettera? Io penso che sì, le conseguenze politiche di questa situazione siano piuttosto pesanti e sono destinate naturalmente a approfondire dei solchi all'interno del Popolo della Libertà, della maggioranza di governo, con conseguenze che insomma adesso è difficile individuare, ma che indubbiamente sono negative per ma non tanto per la stabilità del governo, direi, quanto, almeno non per adesso, quanto per il clima e per il clima e la percezione che poi l'opinione pubblica riceve da una maggioranza che ci si aspetta debba essere, diciamo, più protesa verso la soluzione dei grossi problemi che ha questo paese e non lacerata da questioni di cui poi non è facile percepire la sostanza. Penso anche che Fini ha posto alcuni problemi che riguardano l'apertura di un dibattito interno, ma anche direi un arricchimento del dibattito interno alla maggioranza di centrodestra e al Popolo della Libertà in particolare. Dibattito di cui si sente la necessità, di cui io penso che la stessa maggioranza avrebbe da giovarsi. C'è un po' da questo punto di vista una carenza di capacità di discutere, di affrontare i problemi, di porre anche opinioni diverse. E il fatto che venga posto penso che sia un arricchimento e non vada visto solo e soltanto come una critica al leader, al premier. Tutto questo mi sembra un po' anomalo. Voglio dare velocemente due ascoltatori, andare a Roma da Franco. Buongiorno. Salve, buongiorno. Da che parte sta Feltrinfin? Io sono Franco d'Ostia e decisamente sono dalla parte di Fini, nonostante che non la penso come lui in linea generale. Perché? Perché bisogna riconoscere l'onestà intellettuale e politica di Fini, di dire effettivamente quello che pensa e come stanno le cose, diversamente da Berlusconi che dice che non ci sono problemi. E vorrei ricordare che abbiamo un Parlamento composto da gente nominata e non da eletti del popolo. Vabbè, questo quindi, però è un'altra questione, sì, però interessante. Vero, ma rientra nell'onestà intellettuale di Fini. Va bene. La maggioranza devono eseguire gli ordini, mentre Fini dice onestamente quello che pensa. Grazie Franco. Devo essere velocissimo, devo andare a Milano da Anna Maria. Buongiorno. Anna Maria. Non c'è. Allora, Stefano Folli, ti chiedo anche, visto che c'è con noi Alessandro Sallusti, il condirettore del giornale, ecco, si discute molto su quella posizione, quel evocare un dossier, non un dossier, evocare un documento, un'inchiesta precedente, attenzione, oggi Feltri la rievoca, riscrive quel passaggio contestato. Dal punto di vista strettamente giornalistico, di informazione, che ne pensi? No, io non voglio dare giudizi giornalistici sul modo in cui Feltri dirige il suo giornale. Feltri, da direttore dei quotidiani, ha sempre saputo fare delle scelte editorialmente vantaggiose, cioè voglio dire, ha saputo vendere i giornali che dirigeva e che dirige, e non voglio adesso giudicare. Io giudico dal punto di vista politico. Dal punto di vista politico ci sono stati in queste settimane una serie di conseguenze da parte nella politica, conseguenze di queste iniziative giornalistiche che producono a mio avviso alcuni danni e altri ne possono produrre. L'attacco personale a Dino Goffo ha portato alle sue dimissioni, al direttore di Avvenire, ma anche ha lasciato una ferita nei rapporti tra governo e Chiesa. È una conseguenza da valutare che lascia anche qualche preoccupazione. Io credo in una maggioranza di centrodestra in cui il voto cattolico pesa. L'apertura di un conflitto piuttosto pesante con il Presidente della Camera, che tra l'altro è uno dei fondatori, dei padri storici del Popolo della Libertà, può, come dicevo prima, aprire delle conseguenze, comunque lasciare degli strascichi polemici. La lettera di cui stiamo parlando è il primo gesto. E, insomma, quindi va valutata, diciamo, da una parte la diciamo, la sostanza giornalistica di quello che viene pubblicato, dall'altra soprattutto direi anche le conseguenze politiche che questo comporta, visto che stiamo parlando comunque di un giornale che vende le sue copie e si muove nell'ambito di un'opinione pubblica di centrodestra. Questo è interessante. Sallusti, per concludere, Sallusti Perina, se ce la facciamo in 30 secondi, pubblicare tutte le notizie o considerare anche le possibili conseguenze politiche, dice Stefano Folli. Sallusti. No, senza dubbio pubblicare, benvengano le conseguenze politiche, perché questo caso ha portato alla luce, in discussione politica, un problema che era sotto traccia, che tutti sapevano ma che nessuno voleva portare in luce, cioè la posizione di Fini all'interno del centrodestra. Quegli scroscianti applausi che Fini ha ricevuto alla festa del PD erano il segnale che qualcosa politicamente stava accadendo all'interno del centrodestra, e non solo del centrodestra. Questo caso l'ha portato a galla. Benvenga, discutiamone, parliamone. Il documento di ieri di AN e la fatica dei deputati del PDL che si riferiscono a AN e la fatica con cui è stato composto e firmato dimostra che il problema esiste. Questo secondo me è un merito del giornalismo. Flavia Perina, le devo chiedere davvero in 10 secondi, sarà sul testamento biologico per esempio il primo tavolo? Sicuramente sì, sarà un confronto biologico, anche perché mi sembra che si sia oggettivamente allargata nel momento in cui si è potuto approfondire questo tipo di dibattito e si è potuto uscire dalla categoria dell'invettiva contro chi esprimeva posizioni differenti. Mi sembra che stia emergendo all'interno del centrodestra una sensibilità fortemente indirizzata a modificare il testo eccessivamente prescrittivo votato in Senato. Questi 70 deputati chissà che faranno. Vi ringrazio, devo fermarmi qui, ma il sondaggio continua sul sito radio24.it, la sezione bianco o nero, oppure il sole24ore.com. andate a votare, alle 13 vi daremo il risultato. Non mi resta che ringraziare Alessandro Marcotulli e Laura Marchesi in redazione non Peter Bescafè, oggi c'è Carmelo Lauricella in regia. Grande Carmelo, a domani alle 7:30.